you don't know. What you want, you want, you want, you want, you want. My heart. Buongiorno, bentrovati su CRM Radio. È arrivato il momento di ascoltare la musica insieme a me. Oggi è un sacco di bella musica, naturalmente. Due ore piene di cose da ascoltare, grazie anche al vostro contributo, mi auguro. Anche oggi vi aspetto al 3355637251 per i vostri sms. Poi non dimenticate che c'è anche il nostro numero fisso, lo 0921 923292. Allora, internettiani all'ascolto, sappiate che ci ascoltate dovunque voi siate, e quindi www.crmepiradio.it, il nostro indirizzo per ascoltarci in streaming, e poi la nostra pagina di Facebook. Riempitela, scriveteci, mandateci messaggi, fate un po' quello che vi pare, interagite con noi in qualsiasi maniera. Quanto mi piacciono queste giornate, quanto mi piace questo periodo, è stupendo perché appunto è una temperatura ideale, né freddo né caldo, stai proprio bene, ammesso che non piova, come sta succedendo in effetti in questi giorni. Siamo proprio contenti di questo, anche perché la cosa è un po' agevola, no? Anche la mattina quando ti alzi, poi prendi la macchina, non so, il mezzo per andare al lavoro. Per le strade non c'è la confusione che puoi trovare quando piove, quando c'è maltempo, no? Quindi è molto agevole questa situazione qua per ora. Speriamo che tenga finché può. E vabbè, arriverà l'inverno più tardi possibile, speriamo, anche qua in Sicilia. Invece arriva la musica, la prossima canzone, Irreplaceable, Beyoncé a CRM. Ancora buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, ovunque voi siate, da Mary Catalano che vi accompagna fino a mezzogiorno, To the left, everything you own in the box to the left, in the cloud. closet. That's my stuff. Yes, if I bought it, nigga, please don't touch. And keep talking and mess, that's fine. But could you walk and talk at the same time? Man, it's my name, it's on that tag. So remove your bag, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me to stay. Irreplaceable, il singolo per Beyoncé. Ancora ben trovati, siete su CRM Happy Radio insieme a Mary Catalano con voi sino a mezzogiorno all'interno di Deja Vu. 335-56-37-251 vi aspetta per gli sms. A fra poco Happy Radio. I'm in love with you. You said it there. Anyone can see. What is it with you? You say things, just take it from me. It was not a chance meeting. Feel my heart beating. You're the one. Nothing Fails, ovvero niente fallimenti. Questo è il singolo che abbiamo ascoltato dalla grandissima Madonna qui su CRMP Radio all'interno di Deja Vu. Ancora buongiorno, siete insieme a Mary Catalano e con voi sino a mezzogiorno, e poi non dimenticate la replica di questo appuntamento che va in onda la notte a partire dalle 2. Lo potete sentire senza interruzioni. Musica, musica, musica e assolutamente musica, soprattutto quella che segnalate anche voi al 3355637251. Benissimo, parliamo di qualcosa che potrebbe interessare tantissimo tutti i fedi fraghi all'ascolto, sì, perché arriva in Italia il social network del tradimento e addirittura chiede Berlusconi come testimonial. Pensate un po', l'ex procuratore di giocatori di basket Joel Biederman ha tratto dalla sua esperienza nell'NBA l'idea di un social network che favorisca il tradimento, in cui a quanto sembra i cestisti sono dei veri fuoriclasse. Il sito è www.ashleymadison.com ed è il secondo social network al mondo, dove Facebook per numero uno è praticamente sempre il numero uno, però questo poi è il secondo. Ora, per il lancio del sito in Italia, la società ha pensato di scegliere proprio Silvio Berlusconi, come dicevamo prima, come testimonial praticamente. La filosofia alla base della proposta di Biederman, non so come si pronuncia, comunque sia, questo signore, insomma, la filosofia è molto semplice: il tradimento è una prassi acclarata. Allora, perché non farlo in tutta sicurezza attraverso un sito web con persone che cercano la stessa cosa? E in giorno di presenza sul territorio italiano ha conquistato subito 200.000 iscritti, la maggior parte tutti di Roma, pensate un po'. E si vocifera anche che alcuni personaggi famosi abbiano sfruttato il sito di Biederman per avere una relazione in totale privacy, anche con personaggi politici come Sarah Palin. E non è mai stato confermato tutto questo, però si vocifera questa cosa qua. Sembra che il tradimento sia molto molto trendy anche nel mondo politico. Per il lancio in Italia, la società che possiede il sito ha pensato, come abbiamo detto, a Silvio, e sta vagliando la possibilità legale di questa operazione. In alternativa, poi si vorrebbe provare con qualcosa di più dissacrante che coinvolga il Vaticano, insomma, ma qui la strada si fa decisamente in salita. In ogni caso, le aspettative sul mercato italiano sono decisamente alte e quindi si fa strada anche qui in Italia tutto ciò. E a proposito di cose italiane, sentiamo invece la musica italiana, questa volta di Luciano Ligabue. Salutiamo Lucia che ci segnala Il peso della valigia per Luciano Ligabue. Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui e ti è toccato partire bambina con una piccola valigia di cartone.

altre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. Me e te, elementare. Non volere andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti delle domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. Domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te. Tu come stai? Bene. Io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo. Déjà vu su CRM Happy Radio. You could ever change your heart if you would only change your mind. Instead of slamming down the phone, girl, for the your number on my wall, but I ain't gonna make that call. When divided we stand, baby, united we fall. Got the time, got a chance, gonna make it. Got my hands on your heart, gonna take it. What we're fighting for when we treat each other, baby, like an act of war. I could tell a million lies, it would come as no surprise. When the truth is like a stranger, hits you right between the eyes. There's a time and a place and a reason, and I know thank you. E sempre la musica di CRM Happy Radio, quella che state ascoltando. In questo momento vi parla Mary Catalano ai microfoni con voi sino a mezzogiorno per questo splendido giovedì del 20 di ottobre. Siamo già al 20 di ottobre, ragazzi, non si scherza, Vola, vola, il tempo vola con tanto fiato in gola. Cantava una volta, non mi ricordo chi, comunque una ballerina della televisione, mi sfugge il nome, che ci posso fare? Mandatemi un SMS, me lo ricordate voi, 335-56-37251, il numero per gli SMS. Poi contattateci anche su Facebook, la nostra pagina è aperta per voi, e poi il www.crmpiradio.it, lì ci trovate, lì ci seguite in streaming dovunque voi siate. A proposito di Facebook, forse in pochi lo avrebbero sospettato, ma Facebook fa bene al cervello, lo sapevate? Una ricerca condotta da un team di ricercatori dell'University College di Londra ha appurato proprio questa cosa, che chi ha più amici sul popolare social network potrebbe averne in quantità maggiore anche nella vita reale. Vabbè, questo uno ci arriva, no? Facebook e i social network in generale, comunque, dunque, cambiano il proprio cervello, tanto che risulta esserci un legame preciso tra quantità di amici virtuali e quantità di materia grigia nelle aree cerebrali. Addirittura c'è stato pubblicato un articolo su una rivista importante londinese che parla proprio di questa cosa. Quindi, a quanto pare, sembrerebbe proprio che più amici hai su Facebook, più sei intelligente, più la tua mente spazia, più, insomma, più sei avanti. E allora cerchiamo di accettare tutte le amicizie che ci arrivano a questo punto, no? Direi io, forse. Va bene, intanto continuiamo con la musica che segnalate anche voi, e arriva quella italiana di Carmen Consoli, che sentiamo con Confusa e Felice, da Loredana che ce l'ha segnalato. Ciao a te, buongiorno! Buongiorno anche a tutti gli automobilisti con le vetturine al volante, andate ad agio, tranquilli, tranquilli, fatevi anche spazio fra i raggi del sole di questa bellissima giornata. Benissimo, che una goccia inonda il cielo, è così piccolo il mondo che ci osserva. Sai benissimo che non chiedo tanto adesso, è così limpido il mare che ci ascolta, che ci addormenta. Ah!

questa artista, ovvero Skin, la leader indiscussa degli Skankenensi, mi fa rabbrividire ogni volta che l'ascolto, mi fa proprio drizzare il pelo, mi fa venire la pelle d'oca, ecco. Così, anche a voi sicuramente, bravissima Skin, grande voce, grande singolo questo che abbiamo sentito, Squander, richiesto al 3355637251 da Cristina, che salutiamo e naturalmente ringraziamo. E prima abbiamo anche sentito Laura Pausini col suo nuovo singolo. Abbiamo da dire che il video del suo nuovo singolo, appunto Benvenuto, ha registrato 1 milione di visualizzazioni sul canale ufficiale di Warner Music. Il singolo è primo estratto dal nuovo disco di Laura Pausini dal titolo inedito, che sarà disponibile presso i negozi di dischi di tutto il mondo e presso gli store digitali dal prossimo 11 novembre. Quindi il nuovo album presto presto fra le manine, e potrebbe anche essere un'idea regalo, non lo so, anche per i prossimi festeggiamenti natalizi che ancora sono lontani, però ci possiamo cominciare a pensare. Il video di Benvenuto è stato girato dal regista Gaetano Morbioli ad Amsterdam. Il record di visualizzazioni di sicuro è stata una grande soddisfazione per la famosa cantante, per il regista, ma anche per tutta la troupe. C'è da dire che la troupe, mentre era impegnata con le riprese del video, si è vista costretta a tenere a bada alcuni paparazzi che cercavano di rubare qualche immagine dal set. Le novità su Laura Pausini però non finiscono qui, perché la cantante infatti ha deciso di lanciare il suo nuovo progetto discografico, che tra l'altro segna il suo ritorno sulla scena musicale dopo essersi concessa 2 anni di pausa in televisione. L'album inedito verrà infatti presentato con lo speciale dei Chiambretti Music Show, che andrà in onda proprio il prossimo 11 novembre, quindi in televisione Laura Pausini al Chiambretti Show, appunto a partire dalle ore 21:11 su Italia 1. Facciamo pure pubblicità al programma. Va bene, intanto è arrivato il momento di dare spazio alla prossima canzone. Maroon 5, accoppiata vincente con Christina Aguilera, pensate un po', con questo fischiettio che ormai conosciamo tutti quanti benissimo, è per la canzone che si chiama Movies Like Jagger. Bellissimo singolo che elettrizza la mattinata. Deja Vu su CRM Happy Radio. Su CRM Happy Radio. There she goes once again. Ghost of our love is making me shiver. It's only small drops of pain, but even the rain can turn into rivers. Thought I'd be safe living behind this wall, but the pressure's too much and it's starting to fall. Ryan all'interno di questa scaletta musicale insieme a Mary Catalano all'interno di Deja Vu, che si protrarrà con voi sino alle 12. Abbiamo sentito How Do It, bellissimo singolo per Lee Ryan, e fra poco parleremo di un'idea originale che è venuta ad a un signore appunto londinese, che ha pensato bene di creare un giorno in cui non si mandano mail, ovvero il No Email Day. Arriva dall'Inghilterra questa idea originale, di cui vi parleremo fra pochissimo su CRM CRM Happy Radio. Everything on my bracelet, phone don't ever ring. And another one he don't know about. Wish we could switch up the roles. I could be there. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be at? 'Cause I'm out street. Just like I'm homeless to sleep, like I'm green, like I'm front. Your friends that call when you're with them, like I'm keep a straight face when you tell a lie. Always keep an airtight alibi. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the roles, and I could be there. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me, like where you be at? Cause I'm out 4 in the morning, on the corner rolling, doing my own. I was always gone, let the sun beat me home. Told you I was with my crew when I knew it wasn't true. If I act like you, won't come out off in your shoes. I'm messing with your head again, dose of your own medicine. What if I had a thing on the side? What if I made you cry? Would the rules change up or would they still apply? A CRM Ciara con Like a Boy, come un ragazzo. E sì, bella musica questo CRM, grazie anche alle vostre segnalazioni. Continuate così, ancora fino a mezzogiorno insieme a me. Vi accompagnerò e mi accompagnerete in questo cammino musicale su CRM Piredio all'interno di Deja Vu. E come dicevamo prima, adesso volevo parlarvi di una cosa originale, un'idea particolare che è venuta ad un londinese. Quindi dall'Inghilterra arriva questa idea del giorno no email day, ovvero il giorno in cui non si manderà nemmeno una mail. Proprio così, ormai la posta elettronica è indispensabile per il lavoro quotidiano di ognuno di noi, ma non solo. Questo importantissimo mezzo di comunicazione ha compiuto ormai 40 anni ed è usato per inviare messaggi agli amici, foto, documenti ufficiali, insomma. Tuttavia l'inglese Paul Lancaster, è così che si chiama, ha proposto questo No Mail Day, che è appunto è la giornata senza utilizzare l'email in tutto il mondo. Questo giorno dovrebbe essere fissato per l'11 novembre. Pensate, questo 11 novembre succederanno un sacco di cose, usciranno un sacco di dischi nuovi e in più succederà anche questa cosa. In un manifesto già lanciato su Facebook e non solo, Lancaster ha scritto: come facevano le persone a sopravvivere e svolgere il loro lavoro nel passato? Poi anche ha detto: potremmo essere anche più produttivi sul lavoro senza le distrazioni delle mail. E poi ha detto anche: è ammissibile che alcuni abbiano ancora bisogno delle loro email per svolgere il loro lavoro, ma molti di noi può farlo con una inbox condivisa da usare per inviare e ricevere email di lavoro. Questo implica il completo spegnimento della casella email o semplicemente ignorarla per concentrarsi completamente sul proprio lavoro reale, che non si stanno facendo praticamente. Se avete bisogno di contattare qualcuno proprio in questo giorno del No Mail Day, ci saranno appunto degli off limits per quanto riguarda le email, che saranno poi rimpiazzate invece dalla vita reale, interazione faccia a faccia, insomma come si faceva una volta, prendere il telefono o forse addirittura scrivere una lettera. Ve le ricordate le lettere scritte a mano che poi alla fine ti facevano male l'indice e il pollice perché avevi stretto troppo la penna e allora ti succedeva questa cosa? Meglio ancora se potete passare tempo via dal lavoro per trovare ispirazione e riconnettersi con il mondo offline piuttosto che con internet. L'idea di Lancaster non sarebbe nemmeno così malvagia, devo dire, ma per adesso non sembra abbia trovato troppi riscontri. Infatti su Facebook ha ricevuto solo una ventina di mi piace, senza contare i tweet che si contano sulle dita delle mani. Vedremo se l'11 novembre qualcuno rinuncerà alle davvero la posta elettronica, e intanto insomma c'è davvero da pensarci su, perché comunque sarebbe un po' una disintossicazione un po', no? Soprattutto per quelli che stanno veramente ore e ore e ore sia al lavoro sia a casa davanti al PC, mandare mail, mandare foto, scrivere messaggini. Disintossichiamoci, allora approfittiamo di questa giornata del No Email Day e diamo insomma ascolto a Lancaster che consiglia questa cosa qua. Nel frattempo sentiamo invece la prossima canzone che arriva per voi, nuova nuova, fresca fresca, insomma fresca fresca, qualche mese, Vasco Rossi e naturalmente questo singolo che si chiama I Soliti, ma forse qualche mese non ce l'ha questo, qualche settimana, comunque è nuova, il nuovo singolo per lui. Siamo i soliti. siamo i soliti, CRM Happy Radio. Quelli così. Siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo vivi quasi per miracolo grazie agli interruttori. Noi siamo liberi, liberi, liberi. Così. Siamo gli inutili, fatti così. Noi siamo quelli delle occasioni, prese al volo come i piccioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Frequentato delle pericolose abitudini e siamo ritornati sani e salvi senza complicazioni. Noi siamo liberi, liberi. Vasco Rossi che sentiamo già da qualche settimana con I Soliti, questo singolo richiesto anche da voi. Salutiamo Patrizia, buongiorno a te anche per questo giovedì del 20 ottobre, sempre super affezionata, sempre super super super connessa con noi, con la musica che naturalmente ci richiede anche tu, che subito ascoltiamo. Don't Stop the Party, dunque Black Eyed Peas. This is that original, this has no identical. You can't hack my digital, future aboriginal. Get up off my genitals, I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals, call me verbal criminal. Send you to that clinical, subscribe you some chemicals. Audio and visual, can't see me, invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical, will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit. Cliccate al www.crmpiredi.it, dove ci potete seguire dovunque siate, al nostro indirizzo, appunto, al nostro sito internet, in streaming praticamente. Abbiamo sentito Don't Stop the Party dei Black Eyed Peas qui su CRM all'interno di Deja Vu, sempre Mary Catalano e microfoni con voi. È arrivato il momento di mandare un messaggio che ci chiede di far sapere a Patrizia, che vuole dire a Valeria che le vuole un mondo di bene e che per lei ci sarà sempre, e glielo vuole dire con una canzone, con quella di Christina Aguilera, che si chiama Heart semplicemente. Ancora una volta un buon ascolto a te Patrizia, ma anche a Valeria, e a questa bellissima canzone la dedichiamo noi di CRM, anche quelli che sono all'ascolto oltre a voi. E dunque, ancora una buona giornata, continuate a mandarci i vostri messaggini al 335 56 37 251, oppure chiamate allo 0921 92 32 92. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive. But I won't admit, sometimes I just wanna hide, cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh, yeah. Happy Radio. Vorrei scrivere per te un disco intero. Non è una cosa detta a caso, è quel che sento davvero. Ma le prime parole che mi vengono da dire soltanto queste, tu mi fai impazzire. Dai, dai, dimmi che mi ami mentre fai l'amore che vale di più. Sono sincero quando al mondo intero dico se non esistessi tu. Déjà Vu su CRM Happy Radio. I'm feeling like a star, you can't stop my shine. I'm Bobby Cloud 9, my head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. Yeah, I'm feeling good tonight. Finally doing me and it feels so right. Oh, time to do the things I like. Going to the club, everything's alright. Oh, no one to answer to. No one is gonna argue. No. And since I got that hold off me, I'm living life now that I'm free. Yeah. Told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride, I'm heading out tonight. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. I'm feeling like a star, you can't stop my shine. I'm Bobby Cloud 9, my head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. Now I'm feeling how I should. Never knew single could feel this good. Oh, star player misunderstood. Back in the game, who knew I would? Oh, so flat, time I spread my wings. Loving myself makes me wanna sing. Oh, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry, sorry that it didn't work out. I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride, I'm heading out tonight. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. I'm feeling like a star, you can't stop my shine. I'm Bobby Cloud 9, my head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. Like S-O-L-O, S-O-L-O, S-O-L-O. I'm living my life and got stress no more. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride, I'm heading out tonight. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. I'm feeling like a star, you can't stop my shine. I'm Bobby Cloud 9, my head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. Mancano 20 minuti a mezzogiorno e quindi alla conclusione di questo appuntamento di oggi con Déjà Vu insieme a Mary Catalano, ultimo appuntamento della settimana, visto che comunque ci sentiamo solo il martedì e il giovedì, è poco, lo so, però meglio poco che niente, come si suol dire. Vi ricordo che oggi, visto che giovedì, dopo l'appuntamento insieme a me, ci sarà Filippo Glorioso per voi con il programma Carta e Penna, che come sapete ogni giovedì va in onda. Nel frattempo noi ci godiamo ancora qualche minuto insieme con la musica che andiamo a sentire subito, la musica nuova nuova, quella dei Coldplay. La canzone si chiama Paradise e ce l'ha segnalato Fabrizio, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Approfittate, continuate a mandarci gli sms al 3355637251 oppure chiamate allo 0921 92 32 92. E fra l'altro ci seguite anche in streaming su internet al www.crmepiradio.it e ancora su Facebook, mille modi per interagire con noi.

like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue.